piano. Di Enrico Ruggeri. Più volte nel Novecento, diciamo a tutela della vita umana, della dignità umana, si è presentato un dibattito, e il dibattito è sull'obbedienza a un ordine, soprattutto naturalmente in ambito militare, cioè quanto la valutazione etica può intervenire se l'ordine non rispetta i canoni della nostra morale, della nostra umanità. Per esempio, si è parlato molto di questo durante il processo di Norimberga, nel quale molti gerarchi nazisti si sono dichiarati innocenti dicendo che avevano solamente obbedito a degli ordini. Questo concetto dell'obbedienza cieca, incondizionata, ovviamente pericolosissimo, perché può sconfinare nel fanatismo. Pensate ai kamikaze, piloti giapponesi che durante la Seconda Guerra Mondiale si gettavano contro l'obiettivo nemico perdendo anche la loro vita. E poi in questi ultimi anni tristemente è tornato in auge con gli attentati suicidi ai quali purtroppo abbiamo assistito. Insomma, il dilemma è giusto obbedire ciecamente a un ordine senza valutarne le conseguenze? Bene, noi oggi raccontiamo la vicenda dell'uomo che ha obbedito a uno degli ordini più terribili mai impartiti. È stato l'artefice di uno degli avvenimenti bellici più sconvolgenti, l'atto militare che più di ogni altro ha modificato la storia. Stiamo parlando dell'uomo che ha ucciso più persone nella storia dell'umanità con un semplice gesto, e quindi dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Apro una parentesi, c'è chi dice Hiroshima, chi dice Hiroshima, sono sbagliate entrambe le pronunce in realtà, e in giapponese sono due parole separate: Hiro, che significa grande, e Shima, che significa isola, quindi la pronuncia corretta sarebbe Hiroshima. Comunque, detto questo, oggi cerchiamo di conoscere meglio Paul Tibbets, colonnello della Air Force, pilota del famoso bombardiere B-29, da lui ribattezzato Enola Gay. Da questo bombardiere il 6 agosto 1945 è stata sganciata Little Boy, la prima bomba atomica della storia, che ha distrutto Hiroshima con migliaia di morti immediate e tante altre morti avvenute in un secondo tempo. La mia idea a quel tempo era: se questa cosa ha successo, porteremo la guerra alla sua fine. Non era concepibile che alcuna nazione potesse contrastare il potere della bomba atomica. Negli anni ho potuto confermare quello che pensavo allora, perché portando la guerra alla sua conclusione abbiamo salvato moltissime vite. Quella era la mia idea allora: salvare vite, non distruggerle. Negli anni ho ricevuto tantissime lettere da persone delle diverse nazioni coinvolte e ovviamente anche dagli Stati Uniti, tutte nazioni che erano pronte ad invadere il Giappone. E tutte queste persone che mi hanno scritto dicevano la stessa cosa: con quello che hai fatto, probabilmente tu mi hai salvato la vita. Sentite quanto di terribilmente americano c'è in questa frase, cioè di quell'America che dice: bisogna fare delle guerre per poter esportare la democrazia e evitare morti successive, e intanto si fanno le morti in tempi brevi. Insomma, Paul Tibbets, l'abbiamo capito, non è solo un militare che ha obbedito a un ordine preciso, è uno convinto che ha agito per il meglio con lo scopo non di uccidere ma di salvare delle vite. La sua è una posizione che dobbiamo assolutamente approfondire, al di là di tutte le possibili obiezioni e implicazioni collegate a questo evento devastante di cui si è dibattuto all'infinito. E intanto noi dobbiamo conoscerlo meglio, questo signore. Paul Warfield Tibbets nasce il 23 febbraio 1915 a Quincy, in Illinois. Il padre è un grossista di dolciumi con un passato da militare, la madre una donna dal carattere chiuso, una di poche parole, ma quelle poche hanno una incredibile influenza sul figlio, perché sapete come si chiama la madre? Enola Gay Haggard, un nome particolare che i genitori le hanno dato dal nome della protagonista di un romanzo d'appendice dell'Ottocento, Enola e l'errore fatale, della scrittrice Mary Young Rydenburg. Paul è attirato dagli aerei e dal volo fin da piccolissimo. Gli capita di salire per la prima volta su un piccolo velivolo durante una festa di carnevale, quando a 12 anni effettua un volo a scopo pubblicitario per la ditta di suo padre durante una fiera locale. Getta caramelle con dei piccoli paracadute sulla folla sottostante. Fa molto sorridere questa cosa che lui aveva iniziato gettando caramelle. E inizialmente lui non vorrebbe fare il pilota, il suo destino sembra indirizzato verso qualcosa di totalmente opposto, una professione che ha come scopo salvare le vite umane. Fu un'idea di mio padre. Mi convinse a diventare un dottore perché era una tradizione di famiglia. C'era stato un medico nei Tibets fin da quando lui ne aveva memoria, a parte lui. E così aveva deciso di continuare quella tradizione. E io ero convinto di voler fare il dottore e che lo sarei diventato. Ma comunque, essendo il padre un ex militare, amando quel tipo di disciplina, Paul frequenta un liceo militare, la Western Military Academy di Alton, Illinois, dove si diploma nel 1933, poi si iscrive a medicina in Florida, però nel frattempo, siccome il volo è una passione sempre più grande, prende lezioni private per diventare pilota civile, fino a quando al secondo anno di università capisce che non vuole fare il medico, lui vuole volare. Così, con dispiacere del padre, lui entra nell'esercito degli Stati Uniti con l'intento di diventare un pilota dell'Air Force. Ha frequentato un liceo militare, quindi è già un pilota civile. Lui brucia parecchie tappe, si dimostra anche molto portato, sopra la media, tanto che nel 1938 diventa pilota con il grado di sottotenente presso la base di Kelly Field a San Antonio in Texas. Il falco e il gabbiano. Paul Tibbets viene trasferito al 16° squadrone di base a Lawson Field in Georgia, dove conosce Lucy Wingate, commessa in un grande magazzino. I due si sposano, hanno due figli. Nel frattempo scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Tibbets viene promosso tenente e diventa il pilota personale del generale Patton. Poi passa al 9° squadrone bombardieri, viene promosso ancora col grado di capitano, arriva al famoso 29°, dove inizia a pilotare le fortezze volanti, i Boeing B-17. E dopo l'attacco di Pearl Harbor nel 1941, lui viene nominato comandante ufficiale del 340° squadrone bombardieri, partecipa a una serie impressionante di operazioni militari nel Mediterraneo, oltre 40 azioni di grande pericolo, di grande responsabilità, e poi viene promosso colonnello. E insomma, è diventato una delle punte di diamante dell'Air Force. È un pilota non solo molto bravo sotto il profilo tecnico, ma anche considerato per il suo equilibrio mentale, uno con i nervi d'acciaio che non perde mai la calma neanche nei momenti più difficili, nelle situazioni più rischiose. Mi ricordo questo, che ero freddo e oggettivo in quel periodo, perché l'importanza di quelle missioni era così estrema che non c'era la possibilità di fallire e nemmeno di pensare che si potesse fallire. Avevo raggiunto un tale livello nella mia carriera volando con tanti aerei diversi, equipaggi differenti e organizzazioni militari di ogni genere, che ero assolutamente consapevole, un uomo cosciente di se stesso. Sentivo che non c'era niente che non potessi fare. And I felt there wasn't anything that I couldn't do. Coldly objective, è una definizione precisa, eh? E anche l'autostima di quest'uomo è notevole. Insomma, il generale Arnold, capo delle forze aeree statunitensi, quando ha bisogno di un pilota di grande esperienza per testare la nuova superfortezza Boeing B-29, chiama lui, il colonnello Paul Tibbets. Siamo nel febbraio del 43, nella base di Wichita in Kansas. Tibbets realizza talmente tanti voli test che accumula in un anno più ore di volo sui B-29 di qualunque altro pilota al mondo, e scopre tra l'altro che anche se sono grandi, queste superfortezze hanno un raggio di virata molto ridotto rispetto ad altri aerei di dimensioni minori, una caratteristica che si rivelerà utilissima in tante missioni perché determinerà la salvezza dell'equipaggio. Arriviamo al 1° settembre 1944. Paul Tibbets viene chiamato a rapporto presso la base di Colorado Springs, sede del quartier generale della Second Air Force, e qui incontra il suo diretto superiore, il general maggiore Uzzal Ant, e tre rappresentanti del progetto Manhattan, il famoso programma di ricerca e sviluppo che porta alla realizzazione della bomba atomica. I tre sono il tenente colonnello John Lenz, il capitano William Parson e il fisico Norman Ramsey. A Tibbetts, che è stato convocato per le 9 in punto, viene fatta una strana domanda. The guy looked at me, "Has he ever been arrested?" È mai stato arrestato? E io risposi, sì. E per quale motivo? E io dissi, beh, una notte, non mi ricordo quando, se era proprio notte o mattina presto, a Surfside, che allora era un posto isolato a nord di Miami Beach, mi trovavo nel sedile posteriore della mia automobile con una ragazza ed eravamo in una posizione compromettente. E a un certo punto dei poliziotti ci hanno puntato contro la luce di una torcia e hanno detto, beh, cosa sta succedendo qui? Si misero a ridere tutti e tre. Questo è quello che volevano sapere. Volevano capire se ero uno che mentiva. He wanted to know if I'd lie to him. Eh sì, perché in realtà queste persone ovviamente sapevano già tutto del colonnello Paul Tibbetts, erano informati su tutto quello che lui aveva vissuto e fatto dall'infanzia. L'episodio in questione era un arresto per atti osceni in luogo pubblico che gli era costato una notte di carcere. È un episodio insignificante. Loro volevano vedere se Tibbetts era realmente un uomo sincero. E la missione di quel piccolo peccato di gioventù è determinante. Tibbetts racconta l'episodio pensando alle raccomandazioni della madre di Nola Gay. Sii sempre sincero e andrà tutto bene. E da quel momento Paul Tibbetts, il colonnello Paul Tibbetts, entra a tutti gli effetti a far parte del progetto Manhattan. Norman Ramsey, il fisico che poi sarà insignito del Nobel nell'89, gli rivela che gli Stati Uniti sono pronti a dividere l'atomo, che si sta costruendo una bomba basata su questo principio, che lui è stato scelto per lanciare questa bomba, potente quanto 20.000 tonnellate di qualsiasi altro esplosivo. Paul Tibbetts viene immediatamente avviato al suo nuovo incarico in qualità di capo della base aerea di Vandover, nello Utah, dove viene costituito il 509° gruppo composito, deputato al trasporto del nuovo esplosivo, la bomba atomica. Il 509° gruppo composito ha al suo attivo 1.800 uomini, 15 B-29 modificati, perché Tibbetts, che ha carta bianca e una parola d'ordine silver plate che gli consente di ottenere qualsiasi cosa, ordina la rimozione di ogni sistema difensivo dai velivoli, a eccezione della mitragliatrice di coda. Questo per renderli più leggeri, meglio manovrabili. Però dei 1.800 partecipanti alla missione, solo pochissimi selezionati sanno di cosa si tratti realmente, cioè per cosa stanno realmente lavorando. Paul Tibbetts è l'unico che viene invitato a visitare Los Alamos, l'enorme laboratorio del progetto Manhattan, dove Enrico Fermi e Robert Oppenheimer stanno mettendo a punto la bomba atomica. È proprio Robert Oppenheimer che rivela a Tibbetts gli effetti devastanti di questa terribile arma e la pericolosità della missione. Il suo più grande problema potrebbe cominciare non appena la bomba verrà sganciata e lascerà l'aeroplano. L'onda d'urto generata dall'esplosione potrebbe distruggerlo. Non posso certo nasconderle questo. Temo di non poterle dare la garanzia che chi trasporterà la bomba sopravvivrà alla missione. Inizia una full immersion di parecchi mesi e un allenamento severissimo, diversi voli di prova durante i quali Tibbetts addestra i suoi uomini e se stesso a sganciare la bomba e a restare possibilmente vivi. E il problema è che tra lo sgancio e l'esplosione passa meno di un minuto, un tempo bassissimo per volare via con un aereo delle dimensioni di un B-29. Per allontanarsi il più possibile, Tibbetts si convince che sia necessario effettuare una brusca virata di quasi 180 gradi, in maniera che l'aereo si allontani nella direzione opposta a quella in cui sta viaggiando la bomba sganciata. L'equipaggio si allena per mesi e mesi, poi nel giugno del 45 il 509° viene trasferito sull'isola di Tinian, nelle Marianne Settentrionali, nell'Oceano Pacifico. È uno dei più trafficati e importanti aeroporti della Seconda Guerra Mondiale. È lì che è stato deciso che partirà la missione. Il falco. E il gabbiano. Oggi stiamo raccontando la storia dell'uomo che con un solo gesto ha ucciso più persone nella storia dell'umanità, eppure è un uomo considerato un eroe. È il colonnello pilota dell'Air Force Paul Tibbets, che ha solo 30 anni quando il 6 agosto 1945 è al comando del bombardiere B-29 che lui ha ribattezzato Enola Gay dal nome della mamma. Pensate che persona tenera. Quest'uomo ha sganciato su Hiroshima la prima bomba atomica della storia, ha distrutto completamente la città, questa bomba ha ucciso la maggior parte dei suoi abitanti, e stiamo parlando ovviamente di civili. È uno degli eventi più terribili della storia dell'umanità, che assieme al secondo ordigno nucleare lanciato 3 giorni dopo su Nagasaki decreta di fatto la sconfitta del Giappone e la fine della seconda guerra mondiale. E sarebbe un fardello terribile da portare per chiunque, ma non per lui, perché Paul Tibbets ha sempre difeso il suo operato, che per lui non è stato, attenzione, non è stato solamente obbedire a un ordine, ma anche portare a compimento una missione destinata a chiudere il conflitto bellico e quindi nella sua testa a evitare altre morti. Siamo arrivati a luglio del 45 nel nostro racconto, quando assieme ai suoi uomini, il 509° gruppo composito destinato a sganciare la bomba atomica, Paul Tibbets si trova dislocato nell'isola di Tinian, nelle Marianne Settentrionali, e lì dovrà partire la missione offensiva finale, l'epilogo della Seconda Guerra Mondiale. Il 25 luglio lo Stato Maggiore dell'Esercito dà l'ordine di procedere all'attacco. La settimana dopo anche il servizio meteorologico dà l'ok. La mattina del 5 agosto Tibbets raggiunge il suo aereo. Il bombardiere B-29, numero di serie 4486292, chiama uno dei suoi uomini, gli chiede di dipingere un nome sull'aereo. E questo coccolone Yankee scrive sull'aereo Enola Gay, il nome della mamma. Mia madre è sempre stata una di poche parole. Mi ha chiesto: ma perché hai chiamato l'aereo Enola Gay? E io le ho risposto: beh, vedi, sapevo che l'aereo sarebbe diventato famoso e non volevo un nome che fosse già stato usato. Nessuno conosceva il nome Enola Gay e non c'era nemmeno una possibilità in tutto il mondo che un altro aeroplano potesse essere battezzato Enola Gay. Lei ha sorriso e mi ha detto: ok. Alle 2:45 del giorno dopo il 6 agosto 1945, secondo i termini dell'ordine operativo numero 35, l'Enola Gay si alza in volo con direzione Hiroshima. Con Tibbets al comando è una squadra di 12 uomini. La formazione si compone di 7 aerei. Oltre all'Enola Gay ce ne sono altri 2 che sorvolano Hiroshima con a bordo strumenti scientifici e fotografici. Altri 3 sono in missione meteorologica, mentre 1 viene tenuto di scorta sull'isola di Iwo Jima, a metà strada tra Tinian e il punto dello sgancio. Hiroshima dista 3200 km, ci vogliono 6 ore per raggiungere i suoi cieli. Little Boy, la bomba atomica che arma il velivolo, sta riposando nella stiva dell'Enola Gay. L'equipaggio sa perfettamente che si tratta di una missione di altissimo rischio, stanno volando con una bomba dalla potenza spropositata che potrebbe scoppiare anche prima del tempo, potrebbe funzionare male, anche se Tibbets, intervistato anni dopo riguardo a questo, riferisce che era abbastanza certo del risultato. Ha mai temuto che la bomba potesse detonare troppo presto? No. Non posso dire di aver pensato questa cosa nei termini in cui mi sta ponendo la domanda, perché il mio pensiero era fisso alle persone che avevano lavorato a Los Alamos. Erano totalmente affidabili. Io credevo a quello che mi avevano detto. Certo, non avevo una garanzia scritta che avrebbe funzionato al momento giusto, ma ero talmente sicuro della loro abilità e delle mie capacità con l'aereo che ero certo non avremmo avuto problemi. Ho avuto solo un attimo di sospensione quando la bomba ha lasciato l'aereo. La mia preoccupazione era: funzionerà? Ero convinto che avrebbe funzionato, perché avevo già lanciato per prova parecchi di quegli ordigni con lo stesso meccanismo di fusione. Ma d'altra parte c'è sempre una possibilità di errore. E il dottor Oppenheimer mi aveva detto che avrebbe voluto una possibilità di errore su 1 milione. ma al momento della partenza mi aveva confessato che avevamo una possibilità di errore su 10.000. 17 secondi dopo le 8:15 ora locale, la bomba atomica Little Boy viene sganciata su Hiroshima. Il bersaglio stabilito è il ponte Aioi sul fiume Ota. 43 secondi dopo il lancio, la bomba raggiunge l'altezza prevista per l'esplosione, 580 metri sopra il livello del mare. Alle 8:16 minuti esatti il meccanismo di sparo si attiva. All'interno della bomba il proiettile di uranio subcritico viene sparato contro la massa di uranio posta sul fondo della bomba, innescando la reazione a catena. In un milionesimo di secondo la bomba raggiunge una temperatura di diversi milioni di gradi, superiore a quella che si trova all'interno del Sole. Dopo circa un decimo di secondo la bomba non c'è più. Nel cielo di Hiroshima si forma una palla di fuoco del diametro di 15 metri con una temperatura superficiale di 300.000 gradi. È il primo ordigno nucleare della storia, porta alla cancellazione dell'intera città e di circa 70.000 persone in una frazione di secondo. Il primo effetto della bomba è una pioggia di radiazione che cade nel raggio di un paio di chilometri. Essere colti all'aperto significa morte istantanea, mentre a un paio di chilometri le radiazioni sono sufficienti a uccidere dopo alcune settimane di sofferenze inaudite. Insomma, i più fortunati in questo caso sono quelli che muoiono subito. Il flash di onde elettromagnetiche infrarosse viene visto a decine di chilometri di distanza, è tanto forte da incendiare qualunque cosa. Acceca, infligge ustioni di terzo grado anche a diversi chilometri, è una devastazione senza precedenti. Mentre l'orrore si spande in pochi secondi su Hiroshima, a bordo dell'Enola Gay, il colonnello Tibbetts sta procedendo con la manovra di allontanamento. Non appena la bomba lasciò l'aeroplano, virai da un lato, secondo una curvatura del tutto inusuale, soprattutto per un aereo di quella stazza e a quella altitudine, ma mi ero esercitato talmente tante volte che sapevo come fare e facemmo esattamente quello. Non appena l'aereo si fu stabilizzato nella nuova direzione, il mio mitragliere di coda disse: «Eccola che arriva!» Aveva visto l'esplosione prima di noi. Io naturalmente avevo fatto più in fretta possibile, ma ci sono dei fattori meccanici tali per cui l'aereo aveva bisogno di un certo tempo. E mi preoccupavo che l'ordigno detonasse al momento giusto, perché se avesse anticipato, eravamo spacciati. Ma poi, una volta compiuta la virata, capii che il meccanismo di fusione aveva agito al momento giusto e quindi, quando è arrivata l'onda d'urto, ho pensato: abbiamo avuto successo. L'equipaggio dell'Enola Gay viene dotato di speciali occhiali per evitare di rimanere accecato, ma l'intensità del flash è tale che, nonostante si trovino lontanissimi e molto in alto, i militari riporteranno di aver sentito l'esplosione perfino in bocca, con un intenso sapore di piombo. L'onda d'urto è fortissima, sbriciola edifici d'acciaio e cemento in meno di un secondo. Anche a bordo dell'Enola Gay la si sente così forte che tutti sobbalzano. L'aereo però è stato costruito per resistere a una sollecitazione del genere. 6 ore dopo tutti atterrano sani e salvi a Tinian. Gli effetti della bomba sono storia. 70.000 giapponesi, di cui la maggior parte civili, molti bambini, muoiono all'istante e migliaia continuano a morire nei giorni e nei mesi successivi. È impossibile stabilire il numero esatto delle vittime, si parla di 130.000 persone. Un bel peso sulla coscienza, no? Bene, ascoltate cosa dichiara in proposito Tibbetts. I civili vengono uccisi in ogni guerra, ma dipende da come vengono uccisi. La Germania, ad esempio, ha sempre avuto industrie isolate simili a quelle che si trovano da noi, negli Stati Uniti. Quindi, se bombardi una fabbrica di armi, vai dritto al bersaglio e uccidi solo gli operai di quella fabbrica. Ma il Giappone non aveva quel tipo di industria di cui stiamo parlando. In Giappone c'erano diverse piccole comunità. In una casa costruivano un certo componente di un'apparecchiatura militare, in un'altra casa un altro componente e poi venivano assemblati. Sto dicendo che tutta la città contribuiva. E questo è il motivo per cui sono stati uccisi tanti civili, sia con le bombe convenzionali, sia con quelle atomiche. Non era possibile separare i civili dai militari, perché tutti partecipavano alla guerra con il loro lavoro. Ma lì non ci si fa mancare nulla. Tre giorni dopo, il 9 agosto 1945, viene sganciato un secondo ordigno atomico, Fat Man, sulla città di Nagasaki. E questa seconda offensiva porta di fatto alla capitolazione del Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è esattamente la tesi sostenuta dal colonnello Tibbets, sia allora sia nelle interviste più recenti. Lei crede che la semplice presenza di armi nucleari costituisca un deterrente per la guerra? Lo è. Penso che ci sarebbe già stata un'altra guerra se non fossero esistite le armi nucleari. Sono sicuramente un deterrente. La mia opinione è che se combatti una guerra, la combatti per vincere. Non combatti per continuarla o per perderla. Quello che vuoi ottenere è la vittoria. C'è una buona fetta di popolazione che crede nelle favole, credono che si possa convivere senza preoccuparsi delle guerre, delle armi nucleari e così via. Io invece sono fermamente convinto che bisogna continuare a mantenere una supremazia nelle forze nucleari a nostra disposizione. Non concordo per nessunissimo motivo con il disarmo totale. Supremazia, una parola che abbiamo sentito troppe volte in troppe epoche storie. Insomma, lui è un militare di professione, la pensa come la pensavano gli antichi romani: si vis pacem parabellum, se vuoi la pace, prepara la guerra. Sicuramente è una persona che non si è mai posta la questione morale di cui parlavamo all'inizio della puntata, neanche dopo che è stato lasciato dalla moglie, perché la moglie, almeno lei, non è riuscita a accettare l'azione del marito. È andato in pensione col grado di generale, Paul Tibbets, ed è morto a 92 anni difendendo fino all'ultimo il suo operato. Si pensa che io debba aver perso il sonno per quello che ho fatto, che io abbia un certo rimorso. Beh, vi posso assicurare che non ho perso una sola notte di sonno su questa faccenda. La prima volta che ho buttato delle bombe su un bersaglio ho pensato: laggiù stanno per essere uccise delle persone, persone che non hanno alcuna colpa, non sono soldati. Ma poi ho riflettuto. Se penso alle persone colpite, io che sono un pilota di bombardiere il cui compito è distruggere un obiettivo, se faccio questo allora non sono utile a nessuno. Sapevo perfettamente quante vite avrebbero distrutto le bombe che sganciavo, perché sono ordigni non discriminatori, che distruggono tutto indistintamente. A quel punto mi sono convinto che il problema morale connesso al lancio di bombe non era di mia competenza. Io sono stato istruito per portare a compimento un'operazione militare, bombardare. Ed è quello che ho fatto al mio meglio. La questione morale va lasciata fuori. Vedete che nelle guerre poi non ci sono grandi differenze tra gli atteggiamenti di quelli che poi la guerra la vincono e gli atteggiamenti di quelli che la guerra l'hanno persa alla fine. Però la storia la scrivono i vincitori e i processi vengono fatti solo agli sconfitti. Ci sono persone che hanno saputo volare in alto, ma alcune di queste persone hanno volato in alto per portare in basso la morte, come il nostro protagonista di oggi. Se volete segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito www.radio24.it, scrivetemi nei miei social, nei social della trasmissione della radio, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simone Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.